da bene che nauseante mi metto qui nella mia città. Mi abbandono senza un soldo, senza un fischio, senza niente. Perdonavo e male Dio steso qua. Questo sole che squama in silenzio la mia pelle mi riporta i più vividi serpenti, come loro che inspiegabilmente perdono le mantelle. Striscio per terra corrugando le labbra sopra i denti. Mancavi tanto, viene m'afferra il collo blu. L'amore è come la tosse, si vede che non sei contento. La gentilezza comunque non la vedi più.